21.08, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, in lievissimo ritardo, inizia prove tecniche di trasmissione in onda fino alle 22.30 circa. Lo 0649 1750 contatto telefonico, il sito internet www.ondarossa.info per sentire la radio attraverso un computer. Indirizzo di posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Domani sul sito verrà pubblicata la playlist del podcast di questa trasmissione, come verrà fatto anche sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder. Un saluto a chi ci sta ascoltando, quindi Alessandra qui da Roma, Fabiola da Ostia, ancora da Roma a te di Tada Yuka o Kada Lake Wake, ossia Lake Wake, Stefano Di Serio, Luciano FM genovese, musicista anche lui qui di Roma, Raffaele da Napoli, Maya dall'Argentina. Abbiamo un new entry, persona poco socievole, un nome, un programma. Riccardo, sempre presente anche lui da Taranto. Bene, Lake Wake l'abbiamo nominato ed è proprio con lui che andiamo ad iniziare. Abbiamo già un po' conosciuto la scorsa settimana il suo ultimo lavoro, dal nome Crawling Through the Abyss of Pain, Symphonic Noise, un'opera molto lunga, una traccia di 70 minuti e un'altra di 6. Per quanto riguarda la prima traccia, che porta il nome dello stesso album, chiaramente siamo costretti a mandarne degli stralci e oggi ce ne ascoltiamo un secondo passaggio, salutando Stefano l'ascolto. Eccolo qua, Like a Wake. Thank you. gli splendidi tappeti evocativi edificati da Like Awake, Crawling Through the Abyss of Pain, come si suol dire, è come un buon vino, Stefano, con il tempo migliora sempre. Dico ciò perché nella mole molto molto importante di dischi fatti da Like Awake, questa secondo me è una delle pagine migliori, questo ultimo suo lavoro. Un atto anche di coraggio, se vogliamo, questi 70 minuti. Molto a tratti anche diversi negli stati d'animo che esprime. Un atteggiamento e un approccio, soprattutto in certi tratti, sinfonico, epico. Un vero viaggio mentale, se vogliamo, cosa che riesce assai bene a Like Awake, attraverso anche la Septic Noise, credo proprio la sua label personale. Quindi questo è un lavoro del 2018 e tanta acqua è passata sotto i ponti dal lontano 1984, quando Like Awake iniziò la sua carriera. Lo fece con The Dark Sea of Pain e gli inizi di Like Awake erano assai diversi da questi, molto più improntati sull'industrial noise. E poi ci furono circa 20 anni addirittura, se non erro, di pausa, per ricominciare nel 2011 con Mother numero 2. Dunque ritengo un ottimo inizio questo di Like Awake, così fascinoso anche. Ci siamo ascoltati più di 10 minuti e anche la prossima settimana ci ascolteremo una suntuosa frazione di questa lunga traccia di Like Awake, Crawling Through the Abyss of Pain, Symphonic Noise. Lo scenario muta alquanto invece con Ghost of Breslau, progetto proveniente da Wroclaw, Polonia. Martial, ma anche qualche retaggio di cabaret e neofolk, un disco molto particolare questo E Should the Spring Come e Verrà la Primavera, che esce per questa etichetta argentina, la Twilight Records, che chissà se Maya conosce, un'etichetta molto importante che negli anni ha stampato molti dischi, per esempio anche quelli di Killian Camera. Questo è un album del 2007, questo di Ghost of Breslau, e ci ascoltiamo il quarto e il settimo movimento da questo album. Zniszczyli wszystko, a zostawili rumowisko. O trzeciej w nocy wieś otoczyli, ojców, mężów i braci zabrali. Nieszczęsnym wdowom, biednym sierotom opuszczać domy kazali. Na śmiercią trudno ich rozsądzili, po 10 ich wywozili. W żółtowskim lesie ich rozstrzelali, na nim bogi we wybrali. Bez żadnych opór nad dołem stanęli, bo byli wszyscy bez winy, oddali. zielone, fantastyczne prymitywnie, z czerwono-szarej tektury plastenił wędrowny szok. Pośrodku pięciu chłopców malowanych zielenią i rozpaczą. Pod pachą każdy ma kijek maleńki, wystrugany gładko, którym można by poruszać te figurki, wypchane w ulatnych odcinach. Ach, potrząsajcie białymi mandolinami, całujcie melodie proste w zaprzyrodek liścia na pół stworzeniu świstu. Jeszcze chwila, a uwarła muzyka gałązkami rozmarynca. Jak śpiewnie, jak się pytać ciągle, jak ciągle nie wiedzieć. Nie wiem, co żeś ty zagrał. Teraz kola przejeżdżających samochodów w melodię z łukami pędu po powietrzu ściągną. Z białego nieba pada deszcz z pustu. Zwyczajna byś płytła się zgubić. Deszcz bomb stworzył listy z nieba czarnego. Ach, nim doleci do ziemi, to niebo czarne z przed oczu powiekami odgarni. Deszcz straszny i rzęsisty uderzy w strunę na moim zaganie. Fascino del fruscio, anche se non è un vinile, ci hanno un po' giocato con questa cosa, ci ha giocato Ghost of Breslau, progetto chiaramente polacco, e credo che cantasse anche in polacco, non credo proprio sia Ghost of Breslau, ma ero delle voci ospiti oppure campionate. Allora, salutiamo anche Govini Sincurana da Ferrara, in ottima compagnia di Alberto Nemo, un artista molto molto interessante che abbiamo cominciato ad apprezzare sia in questa sede ma anche in quella di Disorder, con l'ultimo lavoro, anzi con il primo lavoro di un anno fa, quel live 6x0 volume 1, e chissà che magari si riesca ad organizzare qualche cosa qui a Roma, non sarebbe male. Dalla Sardegna Nicola Locci di Stigmate, altra realtà interessantissima qui italiana, Industrial Noise. E sentite il pathos di Ghost of Breslau. Rimaniamo nell'est, quantomeno attraverso i Roitov, che però si avvalgono anche della collaborazione e soprattutto la voce di Deutsche Nepal. Eating the Dust è un interessantissimo lavoro che li vede uniti nello sforzo, uno sforzo che ha prodotto un album notevole. Un album sì elettronico, ma che conserva anche quel minimo di carica esoterico industriale classica di Lina Baby Doll. Oggi ci ascoltiamo Terrible Place da questo Hit in the Dust. Intanto salutiamo Massimo Orz Mascheroni da Milano, impegnato in, anche lui radionoficamente questa sera in quel di Milano, se non sbaglio. Lo salutiamo e di lui più avanti sentiremo anche il suo ultimo lavoro, Orz 60. Intanto è andata questo Hit in the Dust, questa bellissima traccia di Roitoff insieme a Deutsche Nepal. Terrible Place, infatti, This is the Terrible Place to Living, recitava abbastanza chiaramente Peter Anderson, Lina Baby Doll, ospite prestigioso in questo lavoro. Torniamo in Italia, lo facciamo con un progetto al femminile, tre ottimi lavori per quanto riguarda She Spread the Sorrow di Alice Kundalini, una ragazza proveniente dal Piemonte. Abbiamo qui l'ultimo lavoro che si chiama Midori, imperniato proprio su un concept album, una storia riguardante proprio questa Midori, un personaggio della fantasy giapponese, dei fumetti giapponesi. Ci ascoltiamo di End of Midori. Un personaggio che racchiude in sé gli incubi, i sogni e probabilmente c'è anche qualcosa di autobiografico riguardante proprio Alice. End of Midori, da Midori, She Spread Sorrow. Maybe she doesn't know. She doesn't know. She doesn't know. She saved your life. She saved your life. She saved your life. She told. She told. She told. She held that deep wound. That burned. On the forehead. The forehead. That everyone saw. She was pale, she was pale, and her hands were always wasted. She didn't know to exist. She didn't know. She didn't know to exist. To exist. She didn't want to exist. She didn't want to exist. In life, she moves slowly from what makes sense. She was afraid of light, which eliminated her brand. She hid the darkness. Where she knew she won't find you sooner or later. She was waiting for you there. She saved your life. And she didn't know her name. With our little weakness.

Era dunque She Spread Sorrow, progetto di Alice Kundalini, di Endo Midori, che andava proprio a concludere l'omonimo Midori, questo album uscito proprio in quest'anno, nel 2018. Salutiamo anche Fulvio Biondo di Solar Lodge, vecchia, ormai vecchia conoscenza qui di prove tecniche di trasmissione. Un album ammagliante, trasudante mistero in tutte le sue tracce, questo Midori. Noi sì, avanti, abbiamo salutato Raffaele Pezzella, la scorsa settimana abbiamo apprezzato attraverso Sonologies e Silencers il suo ultimo lavoro, credo sia l'ultimo, non vorrei sbagliare, un lavoro che esce per la Cold Spring Records, etichetta inglese. Torniamo invece alle compilation, numerosissime compilation che Raffaele Pezzella ha inventato e creato. E torniamo indietro nel tempo, all'anno scorso, con questa altra vasta compilation dal nome Electroacoustic Music in Latin America, che come si può intuire dal titolo va un po' a setacciare il vasto territorio sudamericano per quanto riguarda la sperimentazione, e nell'album soprattutto si va ad analizzare dal punto di vista anche filosofico e politico, se vogliamo, le eresie in generale sono l'argomento principe di questa lunga compilation. Cominciamo con ascoltarci dunque un artista, e chiaramente se Raffaele mi può coadiuvare, Ulises Labarogne con Atomic Level, di questo Electroacoustic Music in Latin America. Thank you.